intanto bevi l'acqua e si prepara il pagano Bruno per l'ultimo intervento. No, l'ultimo intervento della sala, poi c'è le conclusioni di Alessio. Un sincero saluto, ripeto sincero, e un plauso molto sentito, molto forte, a partire dalla relazione e a tutti gli interventi che si sono susseguiti, nel senso che il clima che ho vissuto in questa mattinata, in questo pomeriggio, mi riportano a tempi indietro dove la vita del sindacato era veramente vissuta in termini vivi e sentita con estrema coscienza. Detto questo, siccome il tempo è breve e siccome io mi trovo concordo in tutti gli interventi e la relazione, facendo ancora un riconoscimento anche sul piano organizzativo di quanto è stato prodotto a partire dal filmato, e quindi questo è un valore aggiunto anche sul piano informativo, dopodiché io farò due o tre osservazioni e darò qualche piccola informazione su un'esperienza che ho fatto. Allora, la prima è quella che in questo clima della CISL unita, molto unita, che io dico mi fa gioire, ho visto anche un clima di unità, anche se ci sono difficoltà, di quanto è stato detto dalla CGL e dalla UIL. E su questo voglio fare un inciso. Sono profondamente convinto che o in futuro la CISL, che ha sempre svolto un ruolo di idee, un ruolo propositivo, un ruolo di trascinamento nella vita sindacale, o riprendiamo questo ruolo e lo gestiamo pur sacrificando qualche piccolo compromesso, o altrimenti da soli non andiamo da nessuna parte. Ruolo che dobbiamo svolgere anche nel sindacato europeo. E per brevità di tempo vi fermo qui, però attenzione, altrimenti con la globalizzazione presente noi rischiamo di fallire nei nostri obiettivi. Il secondo tema è quello della riorganizzazione. Io non nascondo le mie preoccupazioni e le riconfermo, sono di quelli che dice a viso aperto quello che pensa. La Rossina mi conosce, qualche volta ci siamo tirati anche un po' i capelli, però abbiamo sempre rispettato il valore reciproco. Quindi, per quanto riguarda la riorganizzazione, a parte la capacità di politiche e di priorità che dobbiamo scegliere in termini unitari di fare la battaglia, io credo e ho vissuto questa esperienza di questi 4 anni, e lo dico con estrema sincerità anche con un po' di rammarico, anche se politicamente mi rendo conto del tempo che abbiamo avuto e quanto è stato possibile fare. Io credo e ho vissuto che ci stiamo allontanando dall'obiettivo che ci eravamo prefissati, cioè quelli di avvicinarci agli iscritti, alle popolazioni. E quindi io su questo spero, auguro e auspico e propongo che questi 4 anni devono servire perché a livello concreto, non solo a parole, si devono effettivamente produrre risorse economiche e soprattutto organizzazione del territorio alla periferia. Chiudo con questo intervento su un'esperienza fatta, dove io credo che i pensionati abbiano qualcosa da dire, da poter fare in aggiunta, se riusciamo a valorizzare le risorse che abbiamo. Quindi, purtroppo poco tempo, noi nel VCO abbiamo fatto un'esperienza su un tema con molta umiltà, se volete anche banale, che è quella della chiusura degli uffici postali dei piccoli comuni, che è un tema che riguarda tutti gli uffici postali del Piemonte, salvo quelli un po' più grandi. Ebbene, su questo noi della FNP, della CISL, abbiamo prodotto e proposto una proposta politica al governo e alla regione e a Poste Italiane, dove chiedevamo due cose, due semplici cose: uno, che venisse riconosciuto il servizio universale anche per l'apertura degli uffici postali, perché il servizio universale riguarda esclusivamente la consegna della posta; due, che si facessero accordi sul posto e quindi comune per comune, dove in base ai reali bisogni delle popolazioni si faceva l'orario di apertura. Ebbene, su questo, che dal 2015 sono stati chiusi alcuni e parecchi uffici e tanti ridotti a metà come apertura, abbiamo prodotto una specie di vertenza. Su questa proposta abbiamo coinvolto 77 comuni del VCO, abbiamo avuto la condivisione di 69 comuni, e su questo si è costituito un tavolo interistituzionale dove in sostanza sta portando avanti questa vertenza. Abbiamo prodotto delle proposte concrete per i comuni che hanno avuto la chiusura o la riduzione. Si è costituito e si è prodotto a livello regionale un protocollo d'intesa dove prevede intanto un mezzo impegno di Poste, che per i prossimi 2 anni e mezzo non dovrebbero esserci altri provvedimenti di chiusura e di riduzione. In più si è costituito un gruppo di lavoro dove sono in 9, 3 Poste Italiane, 3 Regione Piemonte e 3 ANCI, Associazione dei Comuni. Noi come VCO abbiamo ottenuto uno dei 3 posti regionali. Fra 60 giorni ci sarà una sentenza del TAR dove il VCO ha ricorso come comuni, e quindi su questa battaglia, attenzione, abbiamo coinvolto le popolazioni, abbiamo fatto assemblee, siamo andati sul territorio, abbiamo parlato con la gente e con i comuni, e su questo stiamo lavorando. Tenete conto che devo dire grazie alla Romina Battaglio, a Luca Carretti, a il nostro segretario provinciale Camona. Tutto questo a costo zero, che è sottoscritto il pensionato, e credo che nei territori tanti altri pensionati che hanno tanta professionalità lo potrebbero fare. Allora, vi chiedo scusa, 4 parole da leggere e poi ho finito. Chiudo con un messaggio di Papa Francesco sulla dottrina sociale. Quando il popolo è separato da chi comanda, quando si fanno scelte in forza del potere e non della condivisione popolare, allora l'armonia sociale è messa in pericolo, aumenta la povertà e messa in discussione la pace. Per risolvere i problemi bisogna partire dal basso, sporcarsi le mani. Si rischia di più quando ci isoliamo e non quando ci apriamo agli altri. Nella diversità c'è la ricchezza e la bellezza. Un messaggio che vale per tutti noi a partire da domani, dopo il congresso.